Clelia Sedda. Applauso, applauso di uno. Esatto, applaudiamoci da soli. Ma non solo, perché poi abbiamo in arrivo anche un altro uomo. Un uomo. Che poi anche un'altra voce che ritornerà, che ci aveva già anticipato di questa colossale evento che anche quest'anno continua a riscaldare, a far fervere le menti. Ma come parli? È brava. No, infatti Fedra ha un talento naturale, soprattutto con quel microfono rosso in mano, veramente spaventosa. Eccoci qua. Abbiamo smesso di gracchiare. Ah, ma mi avevi mandato un messaggio: arrivata in cucina, fumo una paglia. Ok, grazie. Ma avevi detto che 333 180 94 94, se per caso volete mandarci dei messaggi che non siano tipo questo. Però scusami, sì. W. Pasquini, tu dici che trasmetti in radio i vocali, quello lì era un testo scritto, non mi sembra il caso. Ho capito, che ne so, ma me ne sono accorto adesso che arriva. No, vabbè, riprendiamo un attimo le redini della faccenda. Esatto. Perché anche se sto qua dal lato degli ospiti, io ho la scaletta facile. Facile. Cosa dobbiamo fare? C'è già la pubblicità? No. Solo le 7:05. Ma c'era la pubblicità? Ci sarà un GR alle 7:30 per caso? Non lo so, chi lo sa? Cioè, ci doveva essere un GR, invece c'era uno che faceva dei rumori strani. Informati, intanto che io introduco la puntata, perché Clelia Sedda è qui a parlarci dell'Error Day, che si sdoppia in due giorni. Esatto. No, con questa musica pensavo che parlassimo di cose più un po' più sensuali. Ma più sensuale dell'errore, ma scherziamo? Con tutte queste R. Esatto. Ah, wow. No, non c'è niente di più. Tu pensa a una donna perfettamente asimmetrica, no? No, perfettamente simmetrica. Non sarebbe particolarmente bella. Cioè, l'errore è proprio la bellezza. E noi, appunto, con l'Error Day celebriamo la bellezza dell'errore, ma non dello sbaglio che paghi tu e che paga l'altro, quell'altro che paghi proprio lo sbaglio che paghi tu quando lo commetti. Cioè, quello sbaglio che ti fa crescere, no? Ed è sempre stato così. Non che bello sbagliare. No, sbagliare fa schifo. Cioè, infatti, più puoi occuparti dell'errore solo se aspiri alla perfezione. E quest'anno si tratterà il tema dell'ignoranza. L'ignoranza creativa. E cioè, qui io sono un esperto. Non sei solo, cioè, caro. Quando volete, chiedetemi quello che volete, in ignoranza direi. Io sono molto ignorante, lo dichiaro qua senza vergogna. Vabbè, perché lo sappiamo tutti. Lo siamo tutti. Certo. Tutti siamo enormemente, universalmente ignoranti. Certo. Come si dice in latino? Tutto quello che non sappiamo. In latino come si dice? Ignoro, dunque sono. Ma esatto. Come si dice in latino? Non lo so, io ho fatto l'artista. No, però Socrate diceva che appunto è solo partendo. Forse lo sa l'uomo che arriva, come si dice in latino. Sì, ma non diciamo niente di lui. Spero bene di no. Non diciamo niente di lui, quando arriverà si presenterà e dirà tutto di sé. No, ma il tema appunto è quello dell'ignoranza creativa, cioè tu più sei infarcito di teoria, meno riesci innovare. In un momento in cui si parla tanto di innovazione eccetera, hai bisogno di fare una pratica delle tue capacità, perché poi è solo esplorando, no? L'esplorazione viene, per esempio pensa a Marconi, la storia di Marconi ve la sapete che è pazzesca. Guglielmo Marconi, riraccontacela tu. Dai. È molto bella, guarda. Dunque, Guglielmo Marconi va da Augusto Righi, lui era studente, no? E gli fa: senti, io con le tue onde elettromagnetiche ti faccio la radio, faccio proprio la radio, riesco a comunicare da una parte all'altra del mondo. E Augusto Righi, ma tu sei fuori, cioè, ma lo sai che la Terra non è mica piatta, caro, eh? Guarda che è impossibile che le onde elettromagnetiche si sviluppino così come dici tu, perché si sviluppano in un altro modo. E aveva ragione Righi, aveva ragione anche Marconi se ne frega, ha la mamma ricca, e cosa fa? Mette un'antenna in Cornovaglia, un'altra parte dello spazio, e la roba funziona. Perché? Perché? Perché nessuno dei due conosceva l'esistenza della ionosfera, per cui c'è il segnale che rimbalza così, fa così, tac tac, e ritorna giù sulla ionosfera, e grazie all'ignoranza è che Marconi ha scoperto la radio. Che è un'ignoranza beata, perché la mamma ci aveva i piccioli. Infatti. E questo è il punto. Perché allora, Tesla invece la sapeva la ionosfera. No, allora io non so se si scoprirà dopo, poi in realtà, no? Cioè, sì, nessuno aveva capito tutto, ha capito tutto. Comunque, io voglio dire, cioè, è una puntata che è la ricchezza della cultura dell'ignorante. Sì, appunto, stiamo parlando di errori e già papà, tiriamo fuori esatto. Il motivo stesso. Io per intanto cui siamo qui ho un adesso. Messaggio che mi chiedono: ma è una replica? E invece devo rispondere a Oscar Moroni. No, siamo dal vivo, siamo live insieme siamo a Clelia Sedda. Una cosa replica. Che io sono anni che attendo, perché io questo error day me lo sto un po' coltivando con gli ascoltatori del Cox, certo. Di anno in anno facciamo le anticipazioni, gli approfondimenti, certo. Però questa è la prima volta che riesco ad avere Clelia Sedda in carne e ossa qui. E che carne e che ossa, mamma mia. Non farmici pensare, da domani su www.coxospaziale.blogspot.com, forse da dopodomani, le foto della trasmissione. Dico bene, Stefanuccio? Lo dici benerrimo. Party that became so powerful by sinking foreign boats. He's dreaming up new promises, 'cause promises win votes. And being resolute in conference with the ad man's expertise, the majority by their silence should pay for days like these. The right to build communities is back behind closed doors. Between government and people stands the right arm of the law. And shame upon the patriot and the mark of the bulldog breed is a family without a home and a pensioner in need. Those whose lives are lived by dogma are waiting for a sign. The Better Dead than Red Brigade are listening on the line. And the liberal with a small L cries in front of the TV. And another demonstration passes on to history. Badges is not enough in days like these. Nel frattempo è finita la canzone. Pensavo che durasse di più. È arrivato un uomo in mutande. Mutande? Magari ho sbagliato. Forse, non lo so. È arrivato l'uomo che stavamo aspettando. È arrivato. Te lo posso presentare? Mettersi, ciao. Scherzo. Allora ti presento. No, adesso mi licenzio perché è il ministro dell'istruzione. No. Alberto Biancastelli. Alberto, molto meglio. Ciao Alberto. Ministro dell'istruzione. Stefano, tutti. Piacere. Buonasera a tutti. Che è una delle ultime passioni di Clelia. Esatto. Sì. Ah, wow. Sì. Anzi, pensavo di essere l'unico. È un bell'uomo, obiettivamente. No, ma al di là di quello, cioè. Andare, no, puoi rimanere. No, al di là di quello, benvenuto al Coxo. Grazie a voi. Sappi, cosa che non vi era stata detto entrambi, chiunque mette un piedino al Coxo prima o poi ci ritorna. È proprio una cosa tipo patto con il diavolo. Spero che vi piaccia. Detto questo, Alberto è una delle ultime passioni di Clelia in tema di error. Esatto. Non me l'avevi detto questo? No, adesso l'ho detto. Adesso lo sai. Praticamente aveva detto bisogna anche venire a me in radio, dirtelo, da però vivo per sapere io non cose. Resisto. Bene, allora? Allora, stavamo reintroduciamo il tema della trasmissione. Questo Coxo è interamente dedicato all'Error Day. Esatto. Che quest'anno avrà luogo il 2 e il 3 novembre, entrambi i giorni a partire dalle ore 18, all'oratorio di San Filippo Neri, in un centro pienissimo. Nel cuore della città porterà la bellezza dell'orrore. Io la gaffina devo farla ogni volta. È in tema. No, la bellezza dell'errore. Dunque, 2-3 novembre, il tema è Beata Ignoranza, come abbiamo detto. Sì. E io ho conosciuto Biancastelli. Quando è che ti ho conosciuto, Alberto? Un anno e mezzo fa, 2 anni fa. Sì, 2 anni fa e mi ha completamente. Per un amico comune, no? Sì, per un amico comune che è Ermanno Cavazzoni. e mi ha fatto conoscere la bellezza di questa dell'invenzione di questo signore qua. In particolare di cosa stiamo parlando? Non so, devo parlarne io? Sì. Ma no, io facevo queste riletture critiche di poesie italiane dell'Ottocento, romantiche, però lette con, diciamo, con l'arma della razionalità. Quindi evidentemente si crea un contrasto, perché tu togli alla poesia tutto il... Tant'è che se Ermanno... togli la poesia alla poesia, cosa rimane? Esatto. Non rimane niente, no, rimane uno scheletro, diciamo, che è spolpato. Però, diciamo, la definizione più bella secondo me era quella di Ermanno, che diceva sordo al linguaggio figurato, cioè uno che si direbbe a Bologna legge le cose dritto per dritto, quindi evidentemente poi crea questo contrasto fra l'immagine, le metafore, così, e uno che ti legge invece le cose così come... Ma ad esempio, qualcosina si potrebbe ascoltare? No, adesso non ho niente dietro, perché poi non è che le so a memoria, però diciamo, potrei fare un esempio. Ma per esempio, se tu prendi Davanti San Guido, quella di Carducci, in cui dice: i cipressi mi balzarono incontro, mi guardar, quando lui passa col treno, e quella è, diciamo, una mala interpretazione del principio della relatività ristretta, in cui uno praticamente pensa che siano gli oggetti negli incontri, in realtà è la teoria del moto apparente. Non lo sapeva mica, era ignorante in questo tema, in questo termini. Questo è un esempio per dire cosa, poi ce ne sono dei più, diciamo, dei più studiati, perché no, quello che dico sempre è che in realtà dietro c'è molto lavoro, perché se tu vai su internet e cerchi una parafrasi di una qualsiasi poesia di quel periodo, di Foscolo, Carducci, Leopardi, la maggior parte delle volte trovi dei riordini delle parole, cioè ti mettono prima il soggetto, il verbo, non serve a nulla, da un certo punto di vista non serve a nulla. In realtà, diciamo, facendo questo lavoro, io che non ho una cultura, cioè, come dire, ho interessi, curiosità, però non è che ho strumenti culturali tali da decriptare immediatamente quel tipo di poesie lì. Ti faccio un altro esempio. Per esempio, se tu prendi Ungaretti, io ho sempre detto Ungaretti passa per essere il poeta ermetico per eccellenza, perché scriveva queste poesie: si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, cioè sono brevissime, ma il problema è che lui, tu vai a cercare di capire perché scrive una cosa del genere, e scopri che lui era al fronte durante la prima guerra mondiale, era in trincea, quindi cosa voleva che scrivesse? La ginestra, cioè non sapeva neanche se arrivava sera, quindi lui scriveva queste cose brevissime proprio perché era, come dire, sentiva la precarietà della vita e quindi scriveva della precarietà. E tu per caso l'hai parafrasata questa? No, questa per esempio non l'ho parafrasata, perché ho provato, ma è difficilissimo. Ce ne sono alcune che sono praticamente inattaccabili. Pascoli, per esempio, è un autore molto preciso, perché devi sempre trovare, cioè quello che è più facile da fare da un certo punto di vista è Carducci, perché usa queste... È più la forma. Sì, è un po' cioè, diciamo così, anche... Sono tutti dei capolavori in realtà, cioè, diciamo, quando li leggi così, io faccio l'asino, perché, diciamo, se no non funziona, chiaramente, cioè, però, diciamo, anzi, ogni tanto mi bullo, mi vanto anche durante la parafrasi di avere Clelia, com'è in scena? No, una meraviglia assoluta, cioè la gente va pazza per Alberto. Come arriva con il figlio? Niente, proprio lui arriva, e la cosa meravigliosa è che non tira la giacca mai Alberto, cioè non è uno che ti deve convincere, tu lo vedi in scena e dici: beh, ma stiamo scherzando, cosa fa là, questo? Quello? E poi ti porta nel suo mondo, ti travolge e non esci più. Cioè, una volta che entri in quella cosa là non esci, ma lui guarda che ha una marea di gente che lo segue, che non aspetta altro che una sua parafrasi. Poi, insomma, parliamone. Ma quante parafrasi le porti per questi due Error Day? Ma in genere quelle che decide Clelia, però diciamo in genere sono due o tre che faccio ogni volta. Insomma. Ah, un pochino proprio ci fai sentire, proprio se lo fai aspettare. Insomma, ci sono anche tante altre cose interessanti, non ci sono solo le mie parafrasi. No, vabbè, diciamo. Però insomma di te volevo parlare perché ancora. Va bene. Però. Allora facciamo così: siccome qua si parla attorno, abbiamo già un elemento cruciale, via dicendo, andiamo un pochino a spulciare meglio di cosa tratta questa beata ignoranza quest'anno. Molto volentieri. Allora, Beata Ignoranza è il titolo. ci sono diversi ospiti, tra cui appunto gli erroristi, siamo ormai Clelia Sedda, cioè io, Alberto Piancastelli che avete appena sentito, e Roberta Giallo. Roberta Giallo. Roberta Giallo. Che poi potremmo anche provare a chiamarla. La proviamo a chiamare adesso, io farei dopo la pubblicità. Va bene. E poi ci sono degli ospiti tra cui Piero Formica, che è uno dei massimi studiosi italiani di economia dell'innovazione, che ha fatto appunto questa teoria dell'ignoranza creativa, e questa teoria economica, questa teoria di formazione, no? di nuovi economisti attraverso l'idea dell'ignoranza creativa e di innovazione attraverso l'ignoranza creativa è stata applicata all'Università di Padova, no? E quindi verrà anche il prorettore dell'Università di Padova per raccontare di questa cosa. Poi c'è Anna Giulia Gramenzi, che è un medico e docente di storia della medicina, che tratterà questo che per me è un quesito molto interessante, cioè tu non sai mai se l'innovatore è un vero innovatore oppure se è un cialtrone, lo sai solo dopo. E quindi farà tutta una cosa sulla cialtroneria in medicina, no? Oh wow, bello, eh? Tra l'altro mi ricordo uno degli esempi che ci avevi portato alle origini, ma è proprio una cosa scontatissima, che era la scoperta della penicillina. Esatto. In realtà è stato un errore che ha salvato e continua a salvare miliardi di vite. Ah sì, lui si è trovato, Fleming, aveva questo vetrino in mano, poi ci ha sputato sopra, ha lasciato l'altro per 3 giorni e poi si è scoperto il principio della penicillina. E poi l'altro ospite del 2 novembre, sempre perché questa è la prima giornata. Oh, tutto nella prima giornata. Tutto nella prima giornata è Mario Pittalis, che è questo, lui si vuole definire impiegato pubblico. Perché questo qua è un funzionario. Attenzione. No, scusate, no? Cioè questo è il vero errore, se ci pensi. Cioè una figura, lui si occupa di, è un architetto del comune di Firenze che fa delle cose magnifiche e farà una conversazione sullo style design, cioè quel design stile, no? Che si sta sviluppando nelle città, non è più una città accogliente, ma esclude e allontana. Togliere le panchine, queste cose qua. Quelle cose là. Ed sta diventando molto di moda questa cosa. Beh, tu prova a pensare che c'è un sindaco, il sindaco di Desenzano, che prende e toglie le fontanelle dove gli immigrati possono lavarsi e possono rinfrescarsi. Oltre agli esseri umani. Oltre agli esseri umani normali, e piccioni magari, esatto, anche che ne hanno il diritto. Ecco, mentre il rettore darà un Bolt, non so dire, università, di Humboldt Università di Berlino. Di Berlino. Accoglie, cioè apre la Humboldt per accogliere il senza tetto. Certo. Cioè di che parliamo? Ma che gente siamo? Parliamo così. Di stronzi da una parte e non stronzi dall'altra. Esatto. Cox una parolaccia. Forse se usi Google Translate in un'altra in mandarino magari te la passo, però no, così oggi, sì, o il PC. No, perché il turpiloquio in questa trasmissione va filtrato attraverso la declinazione del coccyx. Però quel signore se la meritava, c'è un sindaco che toglie che toglie le fontanelle. Ma tutta sta roba qua abbiamo cominciato anni altri in Veneto, ciò. Sì, no, io a Treviso, ma 20 anni fa anche, siamo avanti alla vanguardia. No, di più, 30 anni fa già il sindaco di Venezia proibiva di mangiare per strada. Ah, certo. 30 anni fa era il 1990, me lo ricordo bene. Benissimo. Beh, quella delle panchine però era quello di Treviso. Più gentilini, no? Non mi ricordo, so solo che le panchine non c'erano più e io non potevo sedermi. Perché no, che poi ricade anche sui cittadini di diritto, se si vuole parlare, se si vuole fare distinzioni che magari sono comprensibili a chi poi le gestisce. Infatti. Perché di fatti il vecchiotto come fa a sedersi nella sua passeggiatina e il bambino che si sbuccia il ginocchio come fa a sciacquarsi? Compra una bottiglietta di plastica. E se non c'ha i 50 centesimi o l'euro E poi scusa, inquini con la plastica, cioè, voglia. Di che parliamo? Anche questa è una cosa del. E questo è solo il 2 novembre. No, però vorrei porre l'accento sul fatto che lui ha voluto, Mario Pittalis, no? Questo architetto, che nel programma si è definito come impiegato pubblico. Cioè, finalmente anche l'error day. Spezzo la lancia a favore di gente che anche nel pubblico lavora, perché ce n'è di meravigliosa, certo, cioè non ci sono solamente assenteisti e quant'altro. E mi devo fermare qua o passo al 3 novembre? Non lo so. Io faccio i 25, cosa dici? Partiamo con le pubblicità della mezza? Alle 25, eh? Anticipiamo. Ma non si può! Allora dico una cosa che non c'entra niente. Oggi ho incontrato Roberto Paci da Lo che ti saluta e l'ho invitato perché lui fa questa USMA Radio. Ma dai, che bello, rivediamo il nostro prozio del radiofonico. Infatti, tu lo sai che lui gestisce questa radio di San Marino, USMA Radio, che sarebbe la seconda radio nazionale di San Marino. Una partnership. Infatti, no, assolutamente. Mi ha chiesto una collaboration immediata, gli ho detto mandami subito dei podcast, ho detto vabbè un attimo che magari ne parlo con Feda che e poi sì, per bene, cui lo avremo a Coxo Spaziale abbastanza presto, non prestissimo perché siamo già pieni fino al 26 novembre effettivamente, o se no lo facciamo venire quando tu non ci sei, che per la graphic novel è un po' presto, il 4. Ok, come molto sta sembrando bene, questa che sarebbe poi lunedì prossimo. A meno che non mi vuoi telefonare e intervistare per l'evento. Beh, quello lo facciamo anche se portiamo a casa la diretta, ti intervisto in diretta. Ah, sarà meglio. Sì. Ma a questo punto allora facciamo così. Mm-hmm. Un bel branino a cui aggiungiamo la pubblicità. Ok. Così frattanto vediamo anche di telefonare a chi sappiamo noi. A chi sappiamo noi? Mm-hmm. Che allora magari ci potrà introdurre al giorno 3. Esatto. Non è male anche sto. Questi sono, non mi ricordo più. Eppure dovrei saperlo. Los, non mi ricordo più. Comunque sono venuti ospiti, è Farnedi come al solito. Certo. Ma dai, salutiamo anche Farnedi e salutiamo soprattutto Lolli che si sta ripigliando. Ha avuto un piccolo coccolino, però insomma adesso sarà subito pronto per uova sode e nuovi jingle. Esatto, ripartirà bello come al sole quanto prima. E adesso come branino da 3 minuti cosa ci regali? Ah, vi regalo naturalmente la nostra Jenny Owen Youngs, che è la mia cantante preferita. Oddio, ma perché? Cioè, è spento e lui parla. Come ti capisco? Ti capisco tantissimo. Far la regia lì ritento. È un po' così. No, io ho un file che è fermo. Ecco, lo alzo minuto per minuto. Lo alzo e me lo fa sentire. Non so. La tragedia di una tragedia. Mettiamo del silenzio totale. Facciamo così parte solo Jenny Owen Youngs per. I don't wanna think about you, but I do, I do, I do. Pour another finger out, or maybe two. 'Cause I don't wanna drink without you, but I do, I do. All night I'm suspended animation. Watch the palm trees out the window all turn black. Sleeplessly I'm paralyzed and waiting. Will you come back? I don't wanna think about you, but I do. I don't. just a ghost by the light of my phone. With your name in my throat, I swallow. I swallow. I don't wanna think about you, but I do. I don't wanna think about you, but I do, I do, I do. I don't wanna think about you, but I do. 'Cause I don't wanna think about you, but I do, I do. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Suoni da piedi quando la musica. Quando è sera. Coxo Spaziale. Ed eccoci. Forse tornati, eccoci. Siamo di nuovo noi, quelli del 284esimo Coxo, Coxo Spaziale, l'arte come non l'avete mai, che questa volta è riuscita ad accaparrarsi Clelia Sedda e i suoi sodali per la realizzazione di questa ennesima edizione dell'Error Day, che avrà luogo il 2 e il 3 novembre nell'oratorio di San Filippo Neri a partire dalle 18. Diciamo anche che l'ingresso è gratuito. Bellissimo. Occorre prenotarsi? Non si può prenotare. Bisogna venire nudi, no? Chi esatto. Prima arriva, prima all'occhio. Esatto. Erano Los Beginners, me lo ricorda Giffo naturalmente. Ah bene, grazie Giffo, è stato grazie molto bello. E anche all'orchestra. E noi siamo qui, abbiamo accalappiato Clelia Sedda dopo anni che provavamo a portarla in trasmissione, finalmente il 2019, l'anno dell'Eros. E con quale piacere l'ha con realizzato. Quale piacere. Sì. E lei a sua volta ha accalappiato Alberto Piancastelli, col quale abbiamo parlato sin qui. Mm-hmm. E con cui continueremo a parlare. Sì. Mm-hmm. E allora una volta abbiamo anche accalappiato una voce amicissima del Coxo, la nostra madrina. Quasi, cioè no, la nostra madrina è la Clementoni, però la sentivo di sottofondo che faceva i gargarismi. Ah, perché la sua voce deve essere sempre pronta ad ogni evenienza per le dirette radiofoniche e oltre. Do il benvenuto a questo Coxo alla voce di Roberta Giallo. Ciao ragazzi, grazie per questa presentazione. Mamma mia, neanche fossi una regina. No, lo sei, sei la regina del nostro Coxo. Esatto. Che qua ci chiedevano che cosa voleva bene, dire. Non suona molto una regina del Coxo, comunque. No vabbè, ma è il nostro Coxo, quindi sì. Vabbè, quindi è regale già anche lui. Ma da Piancastelli si intromette che parla destra e sinistra. Sto zitto come un buffo sul Crespo. Il radio sta facendo il bravino, È bravissimo. Poi dovrà scatenarsi più che altro il 2-3, non deve già esaurire tutte le energie fino adesso. Sono come un tipo i rettili, sai, che hanno il sangue freddo, cioè, stanno fermi, in camera hanno calore. Quindi io sono una macchina molto efficiente. Ma in effetti per il 2 questa triade di erroristi deve essere sicuramente un cocktail esplosivo e non vedo l'ora di venirvi a vedere. Se cara, grazie per questa fiducia. Grazie. Ma quindi io cosa devo raccontare, ragazzi? Vi devo dare un'idea di quello che accadrà. Perché non vedendovi ho bisogno di sentirvi. Ho avuto una soffiatina dalla madrina dell'errore bolognese mondiale, Clelia Sedda, e che mi ha detto: ma ha buttato lì un nome, Onassis. Ti dice qualcosa? No, a lei no. A lei no? Dice a noi due. Oddio, a me viene in mente il grande amore di Maria Callas. Bravissima. Ecco, vedi che c'è feeling. No, perché in realtà è musica. E allora io ho fatto un errore dovuto all'ignoranza. Perché non potevi sapere. No, sai perché? Roberta, tu neanche tu lo sai, te l'ho accennato, ma io e Alberto Piancastelli, ispirati così dalla tua dalla tua musica, eccetera. Abbiamo fatto una canzone sui testi di Alberto e io canto, Roberta, io canto. Anche Clelia canta. Canto io e canto Onassis. Abbiamo fatto una canzone dedicata a Onassis. Onassis, ma in realtà vuoi sapere com'è nata la cosa? Roberta, ti interessa sapere com'è nata questa idea? Ma se me lo volete dire, volentieri. Non te può fregare di meno. Invece no, sbagli, è molto interessante. Io ho visto queste immagini. Ispirati da Onassis. Cosa ha detto? È qualcosa. Ispirati da Onassis. Bene. Ispirati da Onassis. Pensa che sia croato. Ha deciso che è croato. No, Roberta, prima di passare a Onassis, perché è una bella storia lunga, comunque no, perché passiamo a Onassis. Allora, avevo visto questa immagine di questa signora ripresa in un ufficio da dietro, che aveva un sacco di gente davanti. Lei era ripresa da dietro e stava giocando a Spider. Sai quel gioco che si gioca ancora, è di Del Folle in tutti i PC? Spider, mm-hmm. È per il gioco di carte. Ah, ok. Ecco, tu immaginati un ufficio con tutta la gente in fila che aspetta che tu la accolga, mentre tu hai il computer che loro vedono solamente dal retro, pensano che tu stia lavorando, invece no, stai giocando. Ha detto: Madonna, che cosa orrenda la burocrazia, no? È una cosa bruttissima la burocrazia. Passiamo a Onassis. Però let's move on to Onassis. Sento delle frasi, senti delle strane voci, non lo so, Roberta, sei tu? Io vi sto ascoltando, ragazzi. Roberta. Vi ascolto da casa, cioè. Sì, però mi dovete pensavo di poter parlare, invece ascolto. No, invece no, è perché siccome siamo un po' a corto di ascoltatori, avevamo capito, perché no, abbiamo deciso di usare il telefono per questa cosa. Per poi essere ascoltati. Esatto. Perché è la giornata dell'errore. No, alle volte mi succede a me che Fedra mi chiama quando non ci sono e poi mi fa sentire mezza trasmissione. Infatti è una cosa che non avevo ancora sperimentato. Anzi, in genere devi essere lì pronto per sparare tutte le cartucce in un minuto, due, ma tre. Allora io sono in curiosa. Questo caso ascolto voi. No, a questo punto io sono curiosa. No, io sentiamo le cartucce di Roberta Giallo sul primo giorno dell'Error Day, esatto. 2 novembre. Ma allora le cartucce, svelando o non svelando troppo, è naturale che ormai il mio ruolo nell'Error Day è quello sempre di essere cantante, cantautrice, insomma, per, come dire, incorniciare dei momenti topici e meravigliosi che si susseguono, perché parleranno sempre personaggi illustri, nonché Clelia è la coordinatrice spaziale, anche si può dire, visto che siete al Coxo. Sì. Ormai Alberto, insomma, è un veterano, nonché un momento topico anche quello di risate, di introspezione anche poetica, ma attraverso l'ironia e anche dei rompicapi di cui solo lui è capace. E quindi io avrò, come dire, il compito, l'onore e l'onere di raccordare un pochino questi momenti attraverso la musica e scegliendo nel mio repertorio delle canzoni che si prestino a questo evento scoppiettante ma anche serio. E quindi le mie canzoni parleranno, come dire, di società, ma anche d'amore, come è naturale che sia, perché nella società l'amore è sempre un motore mobile e immobile, parlando un po' così aristotelicamente, e basta, insomma. Quindi io sarò il 2 novembre, non il 3, ma invitiamo tutti a venire sia il 2 che il 3. E tra l'altro il Laboratorio San Filippo Neri è un luogo meraviglioso, questo luogo antico ma anche moderno, perché la ristrutturazione, insomma, rende il tutto molto, molto interessante, molto particolare. E tra l'altro, insomma, lì c'è anche un architetto, quindi lo sa bene anche lui. E quindi niente, spero appunto di onorare questo mio ruolo che mi è stato conferito da donna Clelia e divertirvi. Io ho una domanda, Roberta. Sono alla regia io. Adesso ho sparato le cartucce, come avete visto, insomma, ho fatto una sintesi. Adesso c'è il controfuoco, è stata bravissima. La mia domanda è: come sarai vestita? Perché so che hai un sacco di fans che sono abbastanza interessati. Ormai, diciamo, ecco, l'abito non fa il monaco, in questo caso invece lo fa, perché ormai è diventata una cifra stilistica. Infatti la preoccupazione principale per me ormai è come mi vesto. Esatto. E infatti non lo so, ci sto lavorando. Comunque devo dire, aspettatevi qualcosa di non così casuale, insomma. Di non convenzionale. Ma può servire qualche pezzo di costume di quelli che abbiamo realizzato insieme? così. Allora, in realtà magari potrei approfittare di un copricapo eventualmente. Okay. O se no puoi dare 500 euro, potrei eventualmente usufruire di un copricapo di quelli, tra l'altro, che avevo realizzato in realtà, insomma, diciamo le cose come stanno, che aveva realizzato Fedra, magari ispirata dal tuo immaginario, ma l'aveva costruito lei, io mi ero offerta come modella, anzi devo dire che che modella. Da quell'esperienza devo dire che mi è esplosa, insomma, anche l'amore proprio per la vestizione, mi sono trasformata un po' in Cinderella, un po' nei topini di Cenerentola. Io sono entrambe le cose, un po' Cenerello e un po' i topini. Roberta, aspetta. Volevo chiederti, volevo andare un po' indietro nel tempo. Quanti error day fate insieme? Quando è scoccata la vostra la partnership con Clelia? Ma addirittura io non so se è scoppiata dal primo error day, questo lo può dire Clelia. Sì, sì. Dal primo, quindi in realtà la prima di Piancastelli è 1-0. io sono Piancastelli la burba, dopo, come si dice. È arrivato dopo e resta, perché insomma delle carte notevoli da adesso giocare. Lo metteremo alla prova al 2. Lo metteremo alla prova al 2. Roberta Giallo lascia dei solchi nel cuore degli spettatori, cioè quando... anche nelle sinapsi. Adesso arriva il momento captato benevolenze tra di noi. Bene, bene. Tagliamolo, quello... che pure quello c'è, a posto, tagliato, esatto. Via. Ritornando alle origini. Riadornando alle origini, passando sopra Google Translate dal telefonino di Stefano, che non ha il computer ma insiste. E, allora, quindi, questa è la edizione numero 7. Un bellissimo numero. Capita. E come si è evolto, come si è plasmato negli anni? Un excursus veloce. Ma, guarda, la caratteristica dell'Error Day è sempre stata quella di cercare di portare quelle cose che avrei voluto vedere, che magari incontravo, no? E altri non conoscevano. Mm-hmm. Perché tu in genere, quando fai degli eventi, devi sempre trovare dei nomi che siano conosciuti e che attirino gente, no? E, invece io pensavo, perché non fare l'errore invece di portare quello di cui sei innamorato, no? Di ti innamori. Quindi io portavo solamente le persone che conoscevo, cioè non è che portavo le persone che erano famose, no? E soprattutto che entravano in questa poetica dell'errore, cioè ti ripeto, non la celebrazione dello sbaglio così, ma il valore proprio conoscitivo dell'errore. E quando ho visto Roberta Giallo mi sono presa una cotta, perché te capisco. Perché riesce a unire così comunque un'estetica della bellezza musicale con un forte contenuto, che anche quello, quando lo senti, poi non ne fai, insomma, ti cambia, no? Come ha detto Alberto, ti apre un solco. E così con gli altri ospiti, cioè questa cosa si è evoluta rimanendo poi così, nel senso che io incontro dei personaggi che hanno delle cose da dire che mi piacerebbe raccontarle anche agli altri, le colleziono durante l'anno e le faccio raccontare a loro, con degli errori magnifici, tra l'altro, perché poi sai, quando una persona ti racconta una cosa la racconta a te, quando deve raccontarlo a un pubblico grande poi si sono create situazioni veramente buffe. Roberta, hai qualche memoria da condividere riguardo alle edizioni precedenti, delle situazioni che sono state particolarmente sorprendenti e piacevoli? Ma allora, io adesso non vorrei appunto per forza ridurmi a elogiare chi è presente, ma devo farlo, nel senso che sicuramente ricordo i luoghi sempre straordinari scelti, questo va detto, non è un caso, insomma, che abbiamo veramente goduto delle parti più belle di Bologna, appunto l'ultima, il laboratorio San Filippo Neri, ma siamo stati anche nella parte, diciamo, la cappella, adesso non mi ricordo il nome, Clelia Farnese, cappella Farnese. L'Aula Biagi, ricordo veramente sempre di luoghi straordinari, anche il Foyer Rossini. E poi appunto, non appunto perché sono presenti, ma insomma devo dire appunto che anche Alberto, insomma, momenti esilaranti che hanno toccato veramente delle punte incredibili, il pubblico si è stradivertito, è quasi morto dalle risate, quindi l'errore è stato che sono usciti veramente delle bare alla fine dello spettacolo, perché tante persone sono morte dalle risate. In realtà... E anche Clelia ci ha veramente straordinariamente divertito, perché anche lei è una persona che utilizza in modo molto particolare la forma estetica, quindi con i suoi travestimenti e le sue maschere, devo dire che crea uno spettacolo legato in modo assai interessante, uno spettacolo sia per le orecchie che per gli occhi, forse dovremmo pensarlo anche per il gusto la prossima volta, come una degustazione. Però non lo so, perché Roberta Giallo mi sta piacendo un sacco chiamare, mi sarebbe piacere sentirla, però non sta facendo neanche un errore qua in sto giro. È perfetta. Perfetta di sempre. Com'è sta cosa? Allora, a questo punto lo fa. Ma è l'esperienza. più cresco, più mi ammalo di perfezione. Però a proposito di copricapi, mi viene in mente che la prima volta che io ho avuto un contatto in diretto con Clelia è stato quando sono finita nello studio di un fotografo che aveva base qui a Bologna. Si chiama Gosdan. E c'era tutta questa galleria di foto di Clelia con dei copricapi. Capi particolari. Sì, perché la mia passione prima era proprio quella di vestirmi con oggetti improbabili e metterli in testa, tipo la bulla dell'acqua calda che mi stava benissimo, tipo cloche, la gondola, le pentoline. Sì. Quindi su questo tema che di tutto ritorna, vedremo i copricapi di Roberta Giallo cosa ci sfoggerà. Ma infatti è tutto un legame generato dall'amore per, come dire, il riuso dei materiali in un modo nuovo, no? Che è un'operazione tra il dadaismo, quando la cosa diventa nonsense, ma oggi come oggi anche tra il riciclo in un certo senso, ma anche la fantasia, no? Di ridare a un oggetto una nuova valenza estetica e anche simbolica, perché poi insomma è molto divertente, devo dire, questa cosa, e forse si unisce tutti quanti poi questo modo di intendere gli oggetti e rielaborarli anche sbagliando. Magari capiterà che si strapperà qualche vestito, insomma, che saremo là. Ma scusatemi, siccome a me piacerebbe troppo avervi tutte e due, non è che ci facciamo un altro coxino giusto per fare tipo i giorni dopo, così ci raccontate dietro le quinte? No, volentieri. Ma guarda, se avremo tempo. Allora, intanto noi ringraziamo tantissimo Roberta per essere stata con noi anche in veste di ascoltatrice al telefono. Esatto. Tra l'altro sono reduce da ieri dalla stagione del Barezzi Verdi, e sono stata al Teatro Verdi di Busseto reinterpretando Verdi, perché questo amore, diciamo, per i classici, reinterpretarli ci lega probabilmente anche questo e ti punto, sei fatta crescere la barba dunque? No, ieri avevo una specie di cespugli in testa, verde, chiaramente per omaggiare Verdi, e quindi è tutto come dicevo, siamo assolutamente sulle stesse frequenze. È tutto verde, come la mostra della settimana scorsa. È vero, è tutto così tossicamente interconnesso. Veramente, spaventoso. Spaziale. E allora un segnale positivo, secondo me è un po' come quando conosci una persona, primo appuntamento, sei vestito dello stesso colore. Io lo intendo sempre come un segno propizio. Lo è. Bene ragazzi, vi bacio, vi abbraccio. Ciao cara. Ci vediamo il 2 novembre al laboratorio San Filippo Neri con voi e il pubblico che verrà. Fedra, spero ci sia anche tu. Sì, io verrò di sicuro. E Alberto, a Clelia dico bacioni e ci vediamo i due allegramente. Ciao, e noi baciamo te. Buon proseguimento. Ciao povero Stefano Pasquini. Ciao cara. Ti ho sentito poco. Non ti preoccupare. Ciao, un bacio. Ci sentiamo anche con te. Ciao ragazzi. giapponese. Ah, ma siamo in diretta? Certo. Ma che cosa meravigliosa. No, appena vi siete rimessi le cuffie ho abbassato, ma intanto... Quindi abbiamo già... Ho fatto la coxata, l'ho fatta. Abbiamo già un canovaccio di quello che saranno i nostri prossimi 5 minuti, gli ultimi della 284esima puntata di Coxo Sociale. Può darsi, anzi, è può darsibile. Ma questo qui è cinese o giapponese? È giapponese, te l'ho appena detto. Giapponese? Ah, ok. Sono le Keiazake... Non ce la posso fare. Che Yakizaka 46. Se 46. Fosse stato cinese sarebbe stato un ulteriore giro di manovella coxica. Mm. Perché Roberta è tornata da poco dalla tournée in Cina. Tutta la Cina hai fatto? Ma Roberta, adesso lasciamola lì, che è già stata piacevole stare con noi. C'ha le sue cose da fare. E noi dobbiamo anche un pochino cantare in giapponese. Sì. Però rimaniamo sempre a parlare di musica, perché riprendiamo quel tema forte che sta diventando anche un Coxo Scoop. Esatto. Dai. Perché abbiamo un'informazione. Onassis. Abbiamo un informatore. Onassis. Questa canzone. Sì. Io ho letto questo testo di Biancastelli che era perfetto per farne una canzone. Ho detto no, la voglio fare, e infatti l'abbiamo fatta. Infatti mia... Era lì che eravate a registrare? È capitato che eravamo a Matera, mi pare. Allora è venuto fuori, perché io avevo scritto tempo fa, mi divertivo a scrivere delle poesie stupidine così. E avevo scritto questa poesia su Onassis, perché era un personaggio che non so per quale motivo mi faceva ridere. Cioè il nome, dici? Perché come tutte le i personaggi che hanno un estremo, io sento queste voci, che è così estremo in fatto di ricchezza, anche un po' di spregiudicatezza, perché lui poi ha avuto una storia personale anche di affetti, in cui tagliava la gente a fette veramente, cioè tipo stava con la Callas, poi dopo si è sposata, Jacqueline Kennedy, forse anche per convenienza, dicevano, è stato uno poverissimo che è diventato ricco vendendo dopo la guerra delle barche, adesso non mi ricordo, cioè, quindi era veramente uno che aveva il fiuto del denaro per fare dei soldi, però forse estremamente asciutto. Gretto. Anche dal punto greco, non vorrei dire greco, era greco in effetti. Estremamente greco, era molto greco anche nel nome. Dopo lei a un certo punto ne ha evidentemente visto che poteva diventare una canzone, così. Io all'inizio, devo essere sincero, non ci credevo tanto, anche se il mio sogno in assoluto nella mia vita è sempre stato di scrivere dei testi per le canzoni. Di musicale. Quindi, capisci? Scusami, è la nuova Mogol Battista, sì, ma magari. Perché in realtà Onassis... Mogol Battista! Il maggiordomo. No, vabbè, in ogni caso noi sappiamo che Onassis sarà in anteprima all'Error Day del 2019. Esatto. Per entrambe le puntate sarà, posso dirlo? Certo. Lo dico? Certo. La sigla di chiusura e anche di apertura. Ma ha fatto un bellissimo lavoro Mauro Lucarini sulla... Sì. Cioè, abbiamo fatto anche il video. Ha fatto il videoclip. Oh, potevate portarci un'anteprima, scusate. Ma lei ce l'avrebbe, però non lo vuole. Non è vero, è che non è equalizzata. Non è equalizzata. Se non è equalizzata, Coxo Spaziale non può suonare. Oh, se volete ve la mando, Però l'anteprima scuppolosa è anche il fatto che questo sarà un brano che anticiperà un album. Esatto. Non lo so, fuori onda, adesso dirà le bio song. Veniva questa idea di scrivere le bio song. Sento le voci. Le bio song sarebbe, diciamo, di fare delle canzoni con dei testi molto stringati, molto però proprio per questo, diciamo, devi distillare il succo di questo personaggio con 2-3 versi al massimo. Ma perché bio? Bio perché, diciamo, rappresenta un po' la biografia. Volevamo che fossero tutti personaggi deceduti, diciamo, in modo che conosciuti ora. Anche abbastanza conosciuti. Onassis, avevamo pensato Nureyev, esatto. E poi dopo Mazzini e Cavour, cioè tipo queste cose qui, però di dire delle cose molto semplici, cioè non soprattutto lui, cioè di cose ovvie, tipo Giovane Italia oppure Patrioti, queste cose qui, cioè di metterle però in una canzone che fa poi del ritmo estremamente coxico. Voi dovete tornare qui a lanciare il disco. Voi adesso noi dopo aver detto questa cosa scompariremo dalla faccia della terra, così diciamo. Però quello che voglio dire, quello che voglio dire è che però secondo me c'è del buono in questa cosa qui, che vuol dire portare, diciamo, in evidenza dei personaggi che magari molti non sfuggono i ragazzi giorno. Giovani, per esempio, i bambini, Onassis, non Garibaldi, chi vuoi, Garibaldi. No, ma scusate, ma ieri mattina si parla sempre di amore, di cose, invece tipo Mazzini, cioè, no, Mazzini, Garibaldi, insomma. E soprattutto l'ultimo che mi ha detto, mi sveglio la mattina e sento il suo messaggio vocale dove fa: ho pensato che dobbiamo fare una canzone su Fanfani. Su Fanfani. No, ma infatti, allora tornerete a trovarci al Coxos. Sì, anche perché il tempo è scaduto e vi dobbiamo salutare. Sì, e poi col cavolo che sparite, perché comunque tutti noi sappiamo che per venirvi a beccare basta venire alle 18 di sabato 2 novembre e poi anche di domenica e vi si becca in carne e ossa. Grazie. Soprattutto carne. Gratuitamente, peraltro. Peraltro. Uno bellissimo scenario. E dunque ringraziamo Alberto Piancastelli e Clelia Sedda e anche Fedra Boscato che le ha accompagnate. Grazie. Grazie. E ringraziamo anche Stefano W. Pasquini che si è prestato alla regia per la seconda volta dopo tutte queste trasmissioni. E lo fa. Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Stickers on a suitcase, tell me where you've been. Could this be the one place you don't leave again? All the best intentions lead you down the path. Wishing you could take your lame excuses back. Nobody's perfect, how could anyone be? Nobody's perfect, especially me. I've been around enough to know sometimes it's hard to see. Nobody's perfect. There are no mistakes in that's what I find. If they want to tear us down, they can get in line. Proving something to them is way beyond my reach. At least if we screw up, we do. Honestly, nobody's perfect, how could anyone be? Nobody's perfect, especially me.